Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Io le trasmissioni di economia e finanza, come la vostra, le odio. Però voi due siete troppo simpatici. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buona giornata quest'oggi, questa mattina, buona giornata solo da me, Mauro Meazza. Deborah si è presa un giorno di vacanza, ha fatto molto bene, tornerà naturalmente lunedì, ma qui siamo pronti a parlare, come vi avevamo promesso peraltro proprio nelle giornate precedenti, siamo pronti a parlarvi di bollette, della luce e del gas. Avete ascoltato anche nel corso del giornale radio che ha preceduto il nostro programma queste brutte notizie che ha diffuso l'Istat, il crollo dei consumi e anche il reddito disponibile delle famiglie, che sono risultati in diminuzione nel secondo trimestre. E ovviamente non potevamo aspettarci cose differenti dal trimestre che è stato più funestato dal Covid e dalle quarantene, però insomma poi quando i numeri arrivano a darci esattamente la dimensione della nostra difficoltà, ecco che sempre un pochino di contraccolpo anche psicologico c'è, e contraccolpo ci sarà anche per i dati delle bollette, perché il mercato a maggior tutela va ai rincari, sono cominciati ieri per appunto chi sta nel mercato a maggior tutela, che sono però più o meno la metà delle famiglie italiane. Ma di tutto questo non lo facciamo attendere ulteriormente, parliamo con il presidente dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, cioè ARERA, il presidente Stefano Besseghini, che è tornato a trovarci e che accogliamo con uno stacco musicale. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco. Presidente, buongiorno. Abbiamo messo una colonna sonora un po' dinamica, però insomma le notizie sono. Siamo sulle montagne russe anche con i prezzi, quindi la dinamica è necessaria. Quindi va bene, insomma, abbiamo fatto una buona scelta. Marco Lombardo anche oggi si è guadagnato lo stipendio. Bene. Ma senta, allora, io faccio un velocissimo riassunto solo per i valori. Quindi si torna a salire più o meno ai livelli pre-Covid. Leggo, pesco qua e là dal comunicato proprio dell'autorità, dal comunicato di ARERA. Quindi ci sono stati forti ribassi nel secondo trimestre e adesso invece andiamo a salire nell'ultimo trimestre dell'anno. Quindi abbiamo una bolletta dell'elettricità, parliamo sempre del mercato a maggior tutela, quindi non di chi sta nel mercato libero, questo lo ripeto sempre. L'elettricità cresce del 15,6%, il gas dell'11,4%. La prima domanda, presidente Besseghini, è perché? Ma perché in parte l'ha già ricordato, siamo adesso entrati in una fase in cui i prezzi della materia prima, dell'energia elettrica, si stanno riallineando al famoso prezzo unico nazionale, per fare un riferimento, si sta riallineando a quelli del periodo pre-Covid. Per dare dei numeri, si era grosso modo dimezzato nella fase del Covid, tant'è vero che nel secondo e nel terzo trimestre avevamo già conosciuto, nel terzo addirittura, una diminuzione quasi del 19%, quindi evidentemente era strana anche quella, anche se poteva ovviamente fare piacere, peraltro quello era sintomo di una situazione, ne avevamo parlato, si ricorda, quando certo, proprio qui a due di denari. Esatto, sì. Di crollo dei consumi. Ora, questi consumi, in qualche maniera mi verrebbe anche da dire fortunatamente, stanno un po' risalendo, i prezzi ovviamente si riallineano il più velocemente possibile anche sui mercati all'ingrosso, e questo riverbera anche sui mercati al dettaglio. Va detto però, per onore di completezza, che se uno prende complessivamente la variazione dell'anno, siamo ancora in una fascia di risparmio per la cosiddetta famiglia tipo, quindi è un discorso medio, ma insomma mediamente le discese di prima e l'aumento di oggi ci tengono ancora in una situazione netta di leggero risparmio, circa 200 euro in meno all'anno per questa appunto famosa famiglia. Sì, questa naturalmente, è. Prego, prego. Naturalmente. No, dicendo, naturalmente questa è una situazione che bisogna adesso tenere assolutamente monitorata e sotto controllo, perché inevitabilmente il tessuto su cui va a incidere queste variazioni è evidentemente un tessuto molto più provato di quello che non il tessuto economico, evidentemente intendo, molto più provato di quello che non fosse un anno, diciamo qualche mese fa, insomma, neanche certo. Un anno, ma infatti Presidente io non ho ricordato i numeri di telefono, ma sono quelli abituali, i nostri ascoltatori ben li conoscono, li ricordo comunque ora se volete intervenire in diretta anche per delle domande, delle cose che non vi sono chiare sul meccanismo delle bollette. 800 24 00 24 è il numero verde, se volete invece utilizzare messaggi SMS o messaggi via WhatsApp 349 238 6666. Come sempre siamo qui a leggere in diretta, a darvi spazio. Allora, visto ascolto. Che lei suona i suoi numeri di telefono, mi lasci suonare anche il mio. Ma con piacere. Lo sportello per il consumatore, che in questa fase credo possa offrire un servizio molto importante anche per ad esempio l'attenzione al tema del bonus e a tutte le difficoltà che le famiglie possono incontrare, che è l'800 166 654, è il numero a cui risponde servizi dell'autorità. Ma guardi, visto che siamo in momento di promozione per entrambi, allora io voglio fare di più. www.arera.it è il sito, lì trovate proprio nella prima pagina, la pagina iniziale, nella home page, questo numero che ha dato ora il Presidente Besseghini, 800 166 654, è uno sportello dove ottenere informazioni e assistenza per i consumatori, ma c'è anche il comparatore per le offerte di luce e gas se qualcuno fosse interessato a passare dal mercato a maggior tutela al mercato libero, per il quale ricordiamo, Presidente Besseghini mi conforti, c'è tempo fino al 1 gennaio 2022. Esatto, per le famiglie e per i consumatori piccoli fino al 1 gennaio 2022. Nel 1 gennaio 2021 ci sarà un primo passaggio per le aziende, per i consumatori diciamo non domestici piccoli. Questa è una delle cose su cui come autorità stiamo lavorando per costruire i meccanismi, diciamo così, di supporto ai consumatori che fanno questa scelta nella fase del 1 gennaio del 2021. Allora, qualcuno già subito chiede, ma scusate, il comparatore in che senso? Che cosa posso comparare se vado sul sito di Arera? Allora accontentiamo subito l'ascoltatore. Il comparatore è un servizio pubblico indipendente che è stato attivato dall'autorità ormai da un paio di anni, che serve proprio per costruirsi una consapevolezza maggiore di quelle che sono le offerte di mercato che sono disponibili. È possibile confrontare tutte le offerte che sono presenti sul mercato, anzi è anche un po' una cartina di tornasole da usare al contrario: se vi fanno un'offerta che non sta nel portale offerte, cominciate a guardarla con qualche sospetto. Permette di verificare appunto quali sono le caratteristiche dell'offerta e in realtà vale la pena forse di ricordare che esiste anche un altro portale, il portale Consumi, in cui sostanzialmente si può vedere la propria situazione in termini di consumi di energia elettrica e gas negli ultimi sei mesi. Questo permette evidentemente anche di capire qual è il proprio profilo di consumo, è un po' come quando uno sceglie la macchina, la sceglie sapendo quanti chilometri mediamente fa l'anno e quante sì. Pensa di dover consumare di se è una famiglia numerosa quindi ha bisogno di una macchina più spaziosa o invece esatto, se si è in due e allora basta una macchina meno spaziosa magari ma più veloce, che so. Una cosa che vale la pena di dire è che il portale è appunto indipendente, non fa offerte commerciali ma guida nelle offerte che esistono e permette in realtà di essere consultato con dati molto semplici, basta dire dove si abita e quanto, se lo si sa di preciso, quanto si consuma all'anno, altrimenti facendo delle stime, dicendo che tipi di apparecchi si possiedono, quali sono le proprie caratteristiche, eccetera, si arriva a un'offerta, a una comparazione di offerte possibili. Tutto questo senza chiedere neppure l'anagrafica, quindi proprio perché è uno strumento assolutamente di supporto e non chiede consultazione libera senza alcun vincolo. Presidente, qui le domande fioccano, come sempre, quando parliamo di bollette, uno dei temi in assoluto su cui c'è bisogno di maggiore informazione. Innanzitutto, ci tolga un dubbio, questi rincari, quando voi comunicate rincari e diminuzioni, il riferimento percentuale va sull'importo totale della bolletta, perché sappiamo è gravato anche da imposte e da oneri di sistema, o invece solo sulla materia prima? No, queste sono le variazioni complessive, quelle che, diciamo, che prendono il titolo dei giornali sono solitamente la somma di tutte le variazioni delle singole voci, quindi è la variazione complessiva. Se uno è interessato a verificare quali sono gli andamenti delle singole voci, allora c'è la nota tecnica, diciamo, la scheda tecnica che pure pubblichiamo regolarmente, basta andare di nuovo sul nostro sito, e lì per le singole voci della bolletta si può vedere come, ad esempio, vale la pena di segnalare che questa variazione di questo mese, di questo trimestre, è praticamente tutta ascrivibile al costo di acquisto dell'energia elettrica, che è cresciuta del 17,6%, ma contemporaneamente sono scese del 2% i costi di gestione della rete, i costi di dispacciamento. Sì. La somma delle due cose porta al più 15,6% di cui avete dato notizia. E questo tipo di considerazione si può fare per ogni, ad esempio, i famosi oneri generali di sistema, sì. Famosa discussione che sono che sempre fatto, sì, sì, poi ci arriviamo a questo, Presidente Besseghini, che sono sempre presenti. In questo trimestre non si sono spostati, sono rimasti, hanno avuto una variazione dello 0%, perché abbiamo ritenuto che malgrado i flussi legati alla dimensione dei consumi siano diminuiti in maniera importante nell'ultimo trimestre, in questo momento potevamo, tra virgolette, permetterci di non alzarli ulteriormente, affidandoci alle disponibilità di cassa che sono già disponibili. Queste sono delle piccole leve che anche l'autorità ha per cercare di mitigare il segnale di prezzo, che però, quando è così importante, che viene dai mercati principali, difficilmente può essere invertito o modificato. E infatti proprio ieri, guardi, qui a Due Denari parlavamo di materie prime, quindi diciamo che anche la materia prima, per ad esempio del gas, ha avuto un aumento di prezzo, questo non può far altro che riflettersi sulle bollette. Sì, c'è un altro gas meno noto ai più, che pure pesa nella nostra dinamica dei costi, che è la cosiddetta CO2, perché il prezzo della CO2 sui mercati internazionali ha anche lui un impatto, e ad esempio anche la CO2 è cresciuta significativamente. Questo è un altro di quegli indicatori che ci fanno da una parte soffrire, ma dall'altra anche un po' ben sperare, perché quando il prezzo della CO2 sale, vuol dire che l'economia è anche che stiamo sta, producendo sta di sta più producendo. E quindi c'è più emissione di anidride carbonica in atmosfera e certo, aumenta la bolletta, però è quasi, diciamo, c'è il contrappeso meglio di una buona notizia. Presidente, lei ha fatto un'allusione prima che mi ha incuriosito, dice: attenzione, quando andate a vedere sulle offerte, se vi hanno fatto un'offerta che non trovate nel comparatore, eccetera, ma perché ci sono anche casi di truffe, siccome con il lockdown, con le quarantene, sono aumentati in modo esponenziale sia le truffe di tipo finanziario, cioè siti che così richiamano promettendo rendimenti mirabolanti, e ovviamente sono il più delle volte delle truffe, ma quindi mi chiedo, ci sono anche delle truffe per quanto riguarda il mercato dell'energia, della luce, del gas? Parlare di truffe specifiche che siano arrivate alla nostra attenzione in questa fase, diciamo, diverse dalle situazioni di a volte di poca chiarezza in alcune offerte o in offerte commerciali aggressive o altri elementi, appunto, che purtroppo già ben conosciamo, mi verrebbe da dire di no. Non abbiamo avuto segnalazioni di particolari soluzioni, diciamo così, originali che si siano trovate per aggirare i nostri concittadini, i nostri consumatori, noi stessi. Però è certamente sempre un tema a cui prestare attenzione, lo diciamo sempre, fornire nel momento in cui si fanno le scelte, bisogna raccogliere le informazioni, facciamolo in maniera attenta, quindi evitando di dare le nostre informazioni, soprattutto quelle che riguardano la nostra situazione, diciamo così, anagrafica, la nostra situazione di rapporto contrattuale, in maniera troppo disinvolta. Possiamo acquisire tutte le informazioni dando molto poco di quello che riguarda la nostra situazione. situazione specifica, e il portale offerte, ad esempio, ha giocato proprio la propria impostazione sul fatto di non chiedere nulla, perché in realtà chiediamo molto agli operatori per caricare le informazioni, all'utente non va chiesto nulla. Quindi non ci chiedete i dati, che come sappiamo sono il nuovo petrolio, insomma, nell'economia attuale. Allora Presidente, è il momento, dobbiamo entrare nel tema degli oneri di sistema. Guardi, prendo a casaccio veramente tra i tanti messaggi arrivati. Allora, come mai mi arriva un consumo di 21 euro e mi chiedete di pagare 65? Allora, una quota sono le imposte, e qui mi sa che ben poco può ARERA, cioè ci sono, non dipendono dal Presidente Besseghini, ma penso dal Ministero dell'Economia, giusto? Esatto. E però poi ci sono, e pesano specialmente per le seconde case, i cosiddetti oneri di sistema. Allora, io so che glielo chiediamo tutte le volte, ma abbia pazienza, rispieghiamolo, perché effettivamente uno vede consumo di 21 euro, bolletta di 65, caspita, è un peso importante. Allora, perché si pagano questi oneri di sistema? Allora, gli oneri generali di sistema sono una parte, diciamo così, dei costi. Servizio elettrico in particolare, perché già ne sono soprattutto presenti sulla bolletta elettrica, dobbiamo sostenere per una serie di iniziative che si è deciso di assumere. La più importante in assoluto, perché questa assorbe quasi l'80% di questa voce, è il sostegno alle fonti rinnovabili. Quindi è una scelta che abbiamo fatto ormai qualche anno fa e di cui stiamo progressivamente onorando gli impegni. Peraltro questa è anche la voce che conoscerà una dinamica maggiore, perché non sono degli oneri che dureranno sine die, sono degli oneri che sono legati a delle precise iniziative che si concluderanno grosso modo nella fine degli anni 20 di questo secolo, e quindi scenderà progressivamente questa voce che va raccolta in bolletta per supportare questo tipo di incentivi alle rinnovabili. Questo, scusi Besseghini, abbia pazienza, io sono scettico sempre che non se rincameri poi invece l'erario, cioè che non si trasformino in imposte, ma è una battuta la mia, no, non so nulla. Capisco, è la naturale diffidenza di tutti noi di fronte al futuro. Sì, è la diffidenza del cronista, che è ovviamente sempre maligno. Mi scusi se l'ho interrotta. Però diciamo che le forme contrattuali che vengono supportate hanno effettivamente una loro vita, e quindi questo è un percorso facilmente prevedibile, peraltro previsto, nel senso, c'è una traiettoria di evoluzione che si conosce. Il fatto che siano distribuite in maniera differenziata sui diversi tipi di utente è proprio una scelta che è stata fatta e ampiamente consultata e dibattuta negli anni in cui queste voci sono state inserite, e su cui naturalmente non è di principio impossibile rifare delle valutazioni. Peraltro in recenti segnalazioni che abbiamo fatto anche al Parlamento e Governo abbiamo proprio indicato il fatto che sarebbe opportuno cominciare ad immaginare alcune operazioni, ad esempio di spostamento sulla fiscalità generale, non della totalità, ma magari di alcune voci più specifiche. Sono alcune legate ad esempio al famoso smantellamento delle centrali nucleari, sì, che potrebbero andare in fiscalità generale. Ce ne sono altre che naturalmente non spostano in maniera così drammatica il valore in gioco su questioni generali, ma comunque danno un contributo in una situazione in cui gli oneri generali giocano anche un'altra partita, diciamo così, non gradevole, soprattutto in un'ottica di liberalizzazione del mercato, perché tendono a diminuire il segnale di prezzo che si può trasferire al cliente finale. Evidentemente, essendo una quota fissa che tutti, sia sul libero che sulla tutela, devono sostenere, chi possono pesare, certo, fa delle operazioni, diciamo, di miglioramento della parte di approvvigionamento di energia, rischia di non riuscire a vederle amplificate correttamente verso il cliente finale. A proposito di mercato libero e mercato a maggior tutela, Salvatore da Roma ha una domanda a questo proposito. Salvatore, buongiorno, ci chieda. Buongiorno, volevo chiedere al presidente dell'autority. Adesso già il libero mercato già c'è da qualche anno insieme a quello di maggior tutela. Se dal 1 gennaio 2022 verrà diciamo chiuso la maggior tutela, che già doveva essere chiusa da qualche anno, ma stanno facendo sempre le proroghe, quindi io cittadino mi trovo solamente ad andare sul libero mercato, quindi non c'ho la scelta se voglio rimanere sulla maggior tutela, che comunque ad oggi è quella che c'è le tariffe più basse. Grazie. Allora, il timore, come capisce Presidente Besseghini, abbiamo ancora un minuto, poco più di un minuto per spiegare questo, il timore è che passando poi tutti, venendo meno il mercato a maggior tutela dal 2022 per le famiglie, si sia esposti a dei rincari. Allora, questa è naturalmente una preoccupazione di tutti, anche dell'autorità, è una risposta però che viene proprio dal fatto che bisogna intensificare le tutele e il controllo delle situazioni di mercato che si determinano. L'affermazione che il mercato libero sia un mercato che fa un prezzo peggiore rispetto alla tutela è purtroppo un'affermazione che in un minuto è difficile commentare, ma non è così completamente vera. Esistono categorie di utenti che vedono dei prezzi maggiori quando si trasferiscono sul libero, ma ce ne sono altre importanti che invece conoscono un risparmio. La situazione su cui stiamo lavorando è che purtroppo alcune volte le categorie che conoscono l'aumento di prezzo sono quelle meno strutturate, più deboli dal punto di vista della capacità di informarsi, di gestire l'accesso al mercato libero, e quindi lì c'è un grande spazio di lavoro per le associazioni dei consumatori, mi lasci dire, per gli stessi venditori, per chi fa le offerte, certo, e ovviamente per l'autorità che di questo deve farsi carico in maniera particolare. E poi allora, nel salutarla, io ricordo sempre che sul portale www.arera.it c'è anche la possibilità di informarsi per chiedere il bonus energia per le famiglie più deboli economicamente, dico bene? Esatto, allora, assolutamente, strumento che credo peraltro in questa fase storica sia importante conoscere. Ricordo che stiamo lavorando con una certa intensità perché dal 1 gennaio del 2021 diventi automatico il riconoscimento del bonus in bolletta per le famiglie che ne hanno diritto. Questo non estende la platea degli aventi diritto, ma rende più efficace la distribuzione di questo bonus, che in questo momento è circa sul 35% di raggiungimento degli aventi diritto, e speriamo di portarlo molto più vicino al 100%, sarà ovviamente molto difficile, ma insomma almeno all'80-85% sarebbe già un grandissimo successo. Una riflessione che pure abbiamo lasciato anche al governo, e se non valga la pena in questa fase di considerare anche estensione della platea. Lo sappiamo perché abbiamo già fatto questo appello, già raccolto questo appello da parte sua in altre occasioni, lo ripetiamo volentieri. Speriamo diventi automatico dal 2021 questa attivazione del bonus energia per le famiglie più in difficoltà. Grazie a Stefano Besseghini, presidente della ARERA, autorità grazie di regolazione. Grazie a voi, è stato un piacere di nuovo. Grazie, e noi andiamo a sentire Adriana Fracchia per le borse. Andiamoci piano con questi messaggi, eh? Siamo sempre un programma di economia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Ma scusate, adesso dopo post-Covid abbiamo meno soldi, aumentate la luce. Vorrà dire che consumerò di meno. Buongiorno Radio 24, una piccola premessa, io sono un consumatore che si muove tendenzialmente nel mercato libero e abbastanza attento alle forniture di energia elettrica e gas. Diciamo che tendo a cambiare i contratti con abbastanza agilità quando vedo delle offerte convenienti. Detto questo però, io penso che sia fortemente sbagliata l'abolizione del mercato tutelato, perché ci sono utenze che hanno bassissimi consumi energetici, vedi seconde case, vedi case chiuse, persone anziane che abitano in case magari non energivore. Io penso sia sbagliato togliere questo istituto che fornisce le forniture energetiche a prezzi calmierati. Non è giusto. Se uno vuole, ha la libertà di stare nel mercato libero e come in borsa muoversi dove più gli pare, dove gli conviene o non gli conviene. Se uno si accontenta del mercato tutelato, perché non dare anche questo strumento? Grazie. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno voluto intervenire, che sono voluti intervenire per partecipare a questo argomento. Noi adesso abbiamo salutato il presidente Besseghini, cambiamo argomento, come forse qualcuno avrà intuito dalla base musicale che abbiamo scelto per introdurre il nostro secondo ospite. Ricordo che se volete riascoltare quanto ci ha spiegato il presidente di ARERA, dell'autorità regolatrice per l'energia, potete farlo già nel pomeriggio dal nostro sito www.radio24.it. trovate il podcast di questa puntata nell'elenco dei programmi, cercate Due di Denari. Adesso, come dicono quelli bravi, voltiamo pagina perché andiamo a parlare di vacanze. Lo so che le vacanze per lo più sono finite, però potremmo magari andare in vacanza anche a novembre con i primi ponti, potremmo andare in vacanza a dicembre. Vedo in regia Peter Bescapè un po' scettico e forse condivide anche le preoccupazioni che appunto segnalavano gli ascoltatori a proposito delle bollette. Però c'è sempre il bonus vacanze, c'è ancora il bonus vacanze fino a fine anno. È stato in parte utilizzato, ma ci si può fare ricorso. E noi vogliamo chiedere un po' com'è andata con questo bonus vacanze, se così ci aspettiamo che possa essere utilizzato anche successivamente, proprio al vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marco Michielli, collegato con noi. Buongiorno, dottor Michielli. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, Federalberghi da una parte diciamo ha cercato giustamente di agevolare, di incentivare, di fare informazione sui propri associati, dall'altra non ha nascosto le perplessità su questo bonus vacanze. A vacanze estive chiuse, quindi siamo allo spartiacque, dura sei mesi, è partito il 1 luglio, finisce il 31 dicembre, siamo esattamente in mezzo. Qual è il vostro bilancio, la vostra impressione? Ma io credo che si possa ormai trarre un bilancio sostanzialmente definitivo, perché il grosso boom delle vacanze ovviamente è quello estivo, ci siamo lasciati alle spalle questo periodo, adesso rimangono le vacanze invernali. Mi permetta di rimarcare un tema che, con il limite dei 40.000 euro di ISEE, generalmente chi fa 15 giorni a Cortina a Capodanno non è persona da reddito inferiore ai 40.000 di ISEE. Detto questo, la situazione a oggi è, non ho la cifra all'euro, ma siamo sostanzialmente attorno, sotto ai 400.000 euro impegnati su un monte di 2 miliardi e 4 che erano stati messi a disposizione. Quindi sostanzialmente l'esito non è fausto, ecco, diciamo, usiamo questo eufemismo. Sì. Ecco, l'esito non è fausto. Adesso il tema è questo. La sensazione, che non è la mia sensazione personale, ma è il portato di tutti gli altri colleghi con cui ho parlato, che chi l'ha utilizzato, chi non l'ha utilizzato, eccetera, è che la procedura detta dagli utenti che potevano usarlo è stata di una complicazione che definirla bizantina, siamo di nuovo nell'eufemismo. Allora, il tema che si pone davanti al governo, secondo me, in questo momento è: o lo proroghiamo fino alla fine del 2021, almeno, però semplificandolo, perché con la procedura che c'è l'esito non potrà che essere quello di quest'anno. Allora, se vogliamo farlo funzionare bisogna che rendiamo la procedura molto più snella. Abbiamo di fronte a noi sei mesi di tempo, bene o male, perché il grosso della stagionalità, il grosso del lavoro verrà dopo il mese di marzo dell'anno prossimo. Mettiamo a punto una procedura che consenta veramente, con due clic, di effettuare questa prenotazione, questo utilizzo insomma del bonus. Del bonus. Altrimenti, in subordinata, rimangono lì per aria un paio di miliardi, dateli a fondo perduto agli alberghi che in questo momento sono in una situazione di sofferenza. Ecco, perché lei mi ha preceduto con questa chiusura, perché io stavo per chiederle, ma visto che ci sono 2 miliardi e 400 milioni stanziati, sono stati usati 800 milioni, forse nemmeno, e visto che diciamo il grosso sembra concluso, quindi potremmo arrivare a 1 miliardo, potrebbe tornare d'attualità questa richiesta, date un contributo al settore. Ma che spazi ci sono? Perché non mi sembra che, come dire, sia tra le urgenze maggiori del governo, o no? Sì, no, le sembra bene. Il tema è, la mia proposta è stata questa: prendiamo i bilanci 2019 e i bilanci 2020. In proporzione ai crolli di fatturato, eroghiamo un contributo a fondo perduto a ciascuno di questi alberghi. In questo momento, lei sa meglio di me, la tensione massima all'interno della nostra azienda è la liquidità. Con questo sistema noi andiamo a premiare, fra virgolette, quelli che più sono stati sfortunati. Abbiamo una situazione di alberghi che faranno il 10% del fatturato dell'anno precedente, quindi perdendo il 90% quest'anno. Ci sono alberghi che perdono il 50%. Mi lasci dire, ci potrà essere in Italia un albergo, magari di fianco a un ospedale, che ha fatto lo stesso bilancio dell'anno precedente, non gli diamo una lira. Sì. Ecco, questa può essere una misura di giustizia, di correttezza, per dare dei contributi che nel resto degli altri paesi europei sono stati dati, non specificatamente alle aziende alberghiere, sono stati dati a tutte le aziende, per cui un mio collega, mio cliente e collega tedesco ha portato a casa, mi pare, 60-80 mila, stavo per dire marchi, mi scusi. No, una volta. Questo denuncia un po' la sua età, perché anch'io avrei potuto fare lo stesso lapsus. Senta, vicepresidente Michielli, aspetti un attimo, perché siamo arrivati, parlando del bonus vacanze, quasi al 45esimo minuto, e come lei sa, al 45esimo minuto a Radio 24 si fischia il traffico, quindi dobbiamo aspettare, diamo le informazioni sulla viabilità, ma torniamo tra pochissimo con lei e tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, 349-238-6666 per sms e WhatsApp, 800-24-0024 per il numero verde. Torniamo tra pochissimo con voi per parlare ancora del bonus vacanze, delle vacanze, perché no? Da tra poco, traffico. Andiamoci piano con questi messaggi, eh? Siamo sempre un programma di economia. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Due di denari. And where down we go. Per lavoro vado a Rimini, tutti alberghi, tantissimi alberghi. Io mi fermo settimana proprio lavorativa. Parlando col mio albergatore, un albergo ottimo, però diciamo non è un grande albergo. Lui si è salvato grazie al bonus vacanze, altrimenti sarebbe saltato tutto. Lui è stato, mi ha detto, sono stato coraggioso, ho voluto rischiare. Mi è andata bene, ho salvato la stagione grazie al bonus vacanze. La notizia è della settimana scorsa. Grazie, sono Stefano. E ne stiamo proprio parlando con il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marco Michielli. Abbiamo pescato uno dei tanti messaggi che ci sono arrivati. Qualcuno dice sì, però non tutti gli alberghi poi sono stati così disponibili ad accettare questo bonus vacanze. Qualcun altro ascoltatore condivide il suo giudizio, presidente Michielli, cioè è troppo farraginoso, troppo complicata la richiesta. Qualcun altro invece ha trovato il tutto molto gestibile. La sostanza è però che il settore sta in un momento veramente nero, specialmente per le città d'arte, o almeno così avevamo annotato durante i tre mesi appena trascorsi. Sì, la crisi, inutile negarlo, pesa su tutto il sistema, per carità, pesa a livelli differenziati. Però tenga presente una cosa, che comunque chi è andato meglio, parlo del mio Veneto perché lì ho dati matematici certi, sì. Chi è andato meglio nel Veneto ha mediamente fatto il 50% del fatturato dell'anno scorso, che sono le località marine. Al 50% lei mi insegna non si fa break even in un'attività alberghiera, quindi comunque chi è andato meglio di tutti, io sono contento per il collega di Rimini di prima, però l'espressione ho salvato il bilancio significa che probabilmente ha chiuso col 50% anziché chiudere a meno 70%. Ecco. Sì. Quindi chi va meglio sono, ripeto, le spiagge, che hanno però un 50% di fatturato. Tenga presente che metà degli alberghi italiani sono di proprietà, per cui hanno fatto tutti, come me del resto, la moratoria di 2 anni sul mutuo, per cui non hanno l'incidenza del mutuo, che è una grossa incidenza. E purtroppo chi invece è in affitto, l'affitto ce l'ha ancora e sono il 50% degli alberghi italiani. Quindi un albergatore che sia in affitto e abbia fatto il 50% del fatturato, beh, insomma, io non vorrei essere nei suoi panni, molto sinceramente. Chi va peggio nella scala delle disgrazie sono le città d'arte, che sono a livelli, guardi, francamente incommentabili. Siamo al 15%, alberghi al 5%, la situazione è variegata in un range che va da 5% del fatturato dell'anno precedente a 20% del fatturato dell'anno precedente. Questa è la fotografia delle città d'arte italiane da Taormina, voglio dire dalla Sicilia fino a Bolzano. Anche a Venezia, visto che lei diceva il Veneto prima, quindi anche a Venezia abbiamo le stesse difficoltà. Venezia non è riuscita, allora Venezia è settembre, il mese tradizionale di altissima stagione, non è riuscita a coprire il mese di tradizionale altissima stagione. Venezia, tra l'altro, nella scala sempre maledetta delle disgrazie, è la più disgraziata d'Italia o d'Europa, perché con l'acqua alta di novembre, vi ricordo dell'anno scorso, sostanzialmente i colleghi di Venezia fra un mese festeggeranno, si fa per dire, un anno secco senza incassi, perché Venezia è vuota da novembre l'anno scorso. Allora, c'è questo bonus vacanze, c'è posto, verrebbe da dire, a Venezia quasi. Io faccio un altro tipo di promozione, cioè non l'ho fatto prima, lo segnalo ora, il vostro portale internet federalberghi.it, dove trovate anche naturalmente non solo le indicazioni per quanto riguarda l'accoglienza sicura, insomma, ma anche e soprattutto quello di cui stiamo parlando, cioè l'utilizzo del bonus vacanze. Lei prima sosteneva, suggeriva anche una modifica nelle modalità di prenotazione e di utilizzo, almeno per questi ultimi mesi, insomma, verrebbe da dire novembre e dicembre, un pochino ci si può muovere, certo è più un mese sono più mesi da località montane, però potrebbe comunque muoversi un pochino di turismo sempre in ambito nazionale, immagino. Ma che cosa ritenete veramente più farraginoso di tutto il sistema? Il rimborso che arriva molto dopo, che deve essere ovviamente posticipato rispetto all'incasso? Allora, sì, sicuramente sì questo, ma poi il passaggio, carico lo speed, prechiedo lo speed via internet, lei capisce che sono cose, io ho fatto un test, sì, la secondo, 3 mesi fa, perché come giustamente osservava prima lei, sono un po' âgé, un ragazzo di 20 anni si mette un quarto d'ora a fare questa cosa. Una persona un po' più avanti degli anni che non ha la grande dimestichezza con, o magari non ce l'ha neanche perché è legittimo non avere un computer, signori, capiamoci, ecco, un signore un po' più âgé invece si inchioda nello sviluppare la procedura. Poi quindi la procedura va resa estremamente più semplice, le ripeto, noi albergatori siamo sensibilissimi alla agibilità dello strumento computer, perché ormai il 90% della nostra prenotazione arriva via computer e io nella mia azienda so che se il cliente con 3 click non riesce a chiudere la prenotazione, molla il mio sito e va da un altro albergo, è normale, o va su delle stramaledette Olta. Quindi abbiamo questa attenzione, non capisco perché il governo non deve avere quel minimo di attenzione, 3 click e via, e si porta a casa il bonus. Dopo bisogna spiegare alla gente che l'80% di sconto te lo anticipa sostanzialmente l'albergatore, che poi coi bilanci che stanno andando via e la carenza di liquidità, come vi dicevo, per quanto piccole somme siano, sono somme che incidono. L'altro 20% devi andare dal commercialista o da CAF, da chi ti fa, e fartelo trarre dalla tassazione dell'anno prossimo. Allora, non stiamo parlando di lavori come il bonus facciate, che possono essere cose da 100.000 euro, per cui vale la pena di disturbare il commercialista per fare la detrazione. Stiamo parlando di cifre che vanno tra i 100 e i 500 euro, lei capisce che mi costa di... A me personalmente, tra l'altro sono anche single, quindi a me spetterebbe un fare massimo 150 euro. Il 20% sono 30 euro, se io vado, mi presento dal mio commercialista con 30 euro di detrazione fiscale, mi tocca scappare via perché mi corre dietro. Capisco che non è così interessante per il commercialista. Allora, siamo praticamente in chiusura, Presidente Michieli, Marco Michieli, Vicepresidente Nazionale di Federalberghi, ci sarebbero ovviamente moltissime domande. Io ho capito che avete un certo pessimismo sulla chiusura della stagione, cioè non ritenete che questi mesi di ottobre, ma soprattutto novembre e dicembre, possano portare un significativo cambio di segno per quanto riguarda e gli incassi e l'utilizzo del bonus vacanze. Ho capito correttamente? Sì, ho capito perfettamente, anche perché la preoccupazione, guarda, ieri proprio ho fatto una riunione con i miei delegati delle montagne, Bellunese e Cortina, e abbiamo condiviso la preoccupazione, perché le faccio l'esempio di Cortina, che è quello più eclatante. Cortina normalmente in questo periodo aveva già in pianta, come si usa in gergo nostro, quindi aveva già prenotazioni in corpo per 60-70 65% dell'occupazione della, del fine anno, delle vacanze natalizie, diciamo. Ecco, adesso ha il 30, che io in un primo momento, chiacchierando con i miei, l'ho detto, ma insomma, perlomeno un 30% ce l'avete. Però è un 30% tutto subiudice, perché adesso tutti gli albergatori ormai hanno imparato che se vuoi prendere una prenotazione devi concedere la disdetta sostanzialmente fino all'ultimo minuto al cliente, perché questi giustamente il cliente guarda il quotidiano tutte le mattine, dà tassi di Covid, questo e quello. E quindi bisogna essere più flessibili. Allora, niente, io le auguro, siamo arrivati al termine, le auguro un comunque tutto il meglio possibile anche per il settore e anche per le nostre vacanze, perché no? Marco Michielli, vicepresidente nazionale di Federalberghi, e auguro naturalmente anche un buon fine settimana a tutti voi. Grazie, torniamo lunedì con Due di Denari. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.